non lo so, l'arbitraggio di ieri sera è stato assolutamente tecnicamente inadeguato, punto e basta. Un campionato difficile che proprio sudato proprio con la lingua fino all'ultimo, però un'emozione indescrivibile, ancora difficile crederci. Tanto io voglio fare l'allenatore dai box, mi piace la situazione, per essere allenatore bravo devi star lì, fa molto tendenza. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadori, regia, sto già ridendo, ve lo dico subito. Fuori tema, come ci viene, come è ovvio in questo programma a cui tutti siete convocati all'800240024, parleremo di nazionale naturalmente, parleremo di Balotelli e della multa che ha preso, fate un po' voi. Parleremo di moto mondiale, che ci interessa molto di più, e dei primi lampi di Valentino Rossi, magari anche un po' di rugby. 800240024, fuori tema come la nostra specialità. Allora vi dico subito, prima della nazionale e della noia, lunga vita a Giovanni Trapattoni, proprio dopo la depressione dell'amichevole azzurra di mezza settimana, giuro che non ne guardo più una. Trapattoni. I knew yesterday, tomorrow, there is an international organization, the criminal organization. And there is a word, it's only Italian words, mafia. Which you remember in Austria, you lost one game. We was first in the table. In the second year, we won the first. It was in front again, we go missing one game, again champion. In 5 minutes, we concede 3 goals. After, I said, it's impossible. After, brought in the room, maybe the players sell the game. Giovanni Trapattoni sul putiferio delle scommesse internazionali. Se non avete capito il suo inglese, vabbè, vi consiglio di studiarlo come ha fatto lui. Ma c'è Trapattoni ancora dopo la notizia del giorno, che pensate un po', notizia sportiva del giorno, e poi ne parliamo, ho l'impressione, è la multa per divieto di sosta a Mario Balotelli. Trap, per favore, ancora. I thought impossible because I know the players. Ma we was the champion again, missing 90 minutes. In 5 minutes, unbelief. The stopper go again, boom, contro, boom, go, goal, boom, goal. 5 minutes, 5 minutes, 3 goals. 5 minutes, 3 goals. I said, oh, it's idioto, it's drug, or drogati, or I thought... Oh, I thought they sell the game, but I have not the proof. No material, prove. But this, for me, is unbelief, this situation. Grande Claudio, che si firma contadino bergamasco, altro che esperanto, il trapianto, con due P, è l'unica lingua universale, grande Juan. Sono d'accordo, 800240024, perché siete tutti convocati. Dopo questo, la notizia del giorno, pensate un po', lanciata dalle agenzie con pallini rossi e mille asterischi, è Balotelli che prende una multa per divieto di sosta a Linate, battibecca un po' con i Ghisa, bisticcia un po' con i Ghisa milanesi. Chi non lo ha fatto di noi, alzi la cornetta e chiami. Se no siamo un po' tutti Balotelli. Chi non ha preso una multa per divieto di sosta magari all'aeroporto e non si è un po' arrabbiato con i vigili? Se queste sono le balotellate, allora forse siamo un po' tutti come lui. Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? No, all'inizio non ci credevo, perché sembrava quasi uno scherzo all'inizio, però poi quando ho visto che era veramente grave, poi mi sono preoccupato tanto. Lei c'è il triangolo? Sinceramente non ci faccio neanche più caso a quello che dicono di questo. Favorisca la patente, per favore. Sono un po' stufato di sentirlo dire. Come mai non hai il bollino? Il bollino dell'ultima pagina, non lo sa? Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. Vabbè ragazzi, complimenti a Franco Piantanini, a chi ha lavorato su questo file. Meraviglioso. Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ben trovati. La notizia del giorno, caro Matteo Marani, che uscirai con il Guerri Sportivo domenica con il trasgressore Balotelli in copertina. Sì, sì. Ma intanto la scelta ovviamente è obbligata, non avevo alternative. Non avevi alternative? No, non c'erano alternative, direi che ha monopolizzato assolutamente la scena di questi giorni e credo che la monopolizzerà ancora per un bel po' di tempo. Dopodiché il fatto che abbia preso la contravvenzione ci garantisce che è arrivato il miglior Balotelli, per cui bene così. Sì, me l'avrei presa anche tu, qualche multa, magari arrabbiandoti sì, con i vigili. Sì, sicuramente, no? Sicuramente. Il problema è che questo, come si muove, fa scattare le agenzie con i pallini rossi. Questa mi sembra davvero eccessiva, meriterebbe un bel chi se ne frega se ha preso la multa all'Inate. Secondo me, o forse era qualche vigile in cerca di pubblicità, non lo so. Siamo alla caccia tutti, voglio dire, di notizie in un sistema che ha bisogno di notizie continuamente. Guardavo il suo arrivo a Milano, a me ha colpito molto la corsa Busto Arsizio, l'avrete presente anche voi nel giorno delle viste, l'assalto di telecamere, microfoni, sì. È chiaro che secondo me c'è anche molta responsabilità nostra, molto ci mette ovviamente il soggetto, ma anche noi come sistema dei media che abbiamo poi bisogno di cose da rendere notiziabili. Sì, poi c'è Filippo su Twitter che mi scrive: quando aveva altre maglie questi erano comportamenti inaccettabili per i media, non lo so. Alessandro su Twitter: cavolo, ma ti paga, nella difesa di questo individuo stai sfiorando il ridicolo, contento te. Io non sto difendendo nessuno, mi limito a sorridere di fronte ad una contravvenzione che diventa una notiziona. Senti Matteo, io prometto solennemente di non guardare più un'amichevole di mezza settimana della nazionale a febbraio. Mi sono fatto fregare dalla coppia Balotelli e El Shaarawy, in realtà non ho visto nulla di interessante se non un discreto finale e un buon Verratti. Sì, ma anch'io, nessuno credo abbia visto nulla di interessante, tra l'altro sì, alla fine abbiamo pareggiato con questo gol, ma era l'ennesima amichevole ormai destinata a essere persa. Io ho la sensazione che questo sia molto italico, cioè se non c'è di mezzo il bottino pieno, se non c'è di mezzo qualcosa di importante, tendono a rilassarsi, ad affrontarlo in maniera diversa, forse c'è un condizionamento dei club, un'influenza da parte del campionato. Fatto sta che le nostre amichevoli spesso si trasformano in occasioni perdute. E guarda, per assurdo, ieri giocando malissimo abbiamo pareggiato una partita, forse avevamo giocato meglio in altre circostanze in cui avevamo comunque perso. Ieri proprio non mi è piaciuto quasi nulla dell'Italia, quasi nulla. Un po' nel finale l'ingresso di Osvaldo Gilardino e questo gol di Verratti, ecco, teniamoci questo. Queste poche cose. Matteo, ti chiedo un attimo di pazienza, no, vado avanti, traffico dopo. Allora proseguo in questa coppia Balotelli e El Shaarawy, che secondo me è stata un po' troppo così esposta anche dallo stesso Prandelli, ha ingannato me come altri, come magari anche te, nella curiosità di vederli all'opera in nazionale. In realtà non hanno combinato nulla. Sarebbe forse nulla, necessario un po' più di circospezione, un po' più di pazienza, un po' più di ma torniamo al discorso toni leggeri, per Balotelli, no? torniamo un po' al discorso prima che valeva per Balotelli, cioè uso un termine, un neologismo, abbiamo bisogno di eventizzazione, cioè noi dobbiamo eventizzare tutto quello che succede, se non c'è un evento sembra che non si possa muovere il mondo, non solo nel calcio ma anche in televisione, in tutte le attività oggi nostre della modernità. Per cui anche questa partita qui doveva essere l'occasione per vedere il miglior Balotelli e il migliore El Shaarawy, cosa che non è tra l'altro fisiologicamente possibile. Io però credo che questa sia la coppia ottima, anch'io, credo che sia la coppia del futuro, anch'io. Credo che comunque abbiamo una coppia in attacco italiana che ha 40 anni in due e che rappresenta anche un valore simbolico, non possiamo nascondere questo, cioè il fatto che siano figli di stranieri nella nazionale nostra ci porta al livello di altre nazionali come quella tedesca che ha avuto la generazione degli Özil, dei Khedira, la Francia addirittura prima. E secondo me è un'apertura anche sulla nuova Italia che ha un forte valore in un momento in cui purtroppo temi come il razzismo, come diciamo anche l'integrazione, sono temi molto caldi in Italia. Sì, non c'è dubbio. Direttore, ti chiedo un attimo di pazienza appunto per il traffico e poi chiudiamo buttandola un po' sul campionato, perché sabato c'è un incrocio mica male. Strade. Buongiorno a tutti. Notizie del traffico? Dobbiamo dare la linea al traffico? Pensavo ai tempi vostri. Tutti convocati. Torniamo con Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, per guardare a questo incrocio del sabato, incrocio scudetto, Juventus-Fiorentina alle 18, Lazio-Napoli alle 20.45 con già a verbale, per stare in tema di multe, il risultato appunto della Juve che Napoli già conoscerà in questa trasferta contro una Lazio che sembra aver un po' perso la strada e sempre in attesa di sapere se poi si giocherà effettivamente come pare a Dis Arenas la Cagliari-Milan di domenica, che per varie ragioni è la partita più attesa. Matteo? Beh, sicuramente un sabato bello, un sabato interessante, un sabato che ci dirà qualcosa in più su questa lotta a scudetto che devo dire insomma sta coinvolgendo. È una bella sfida perché intanto raggruppa, come dire, tantissimi tifosi da una parte e dall'altra, espressione di due realtà importanti, se vogliamo allargarlo è il nord, un modello diciamo nordico sabauto con invece meridionale napoletano. Credo che questo turno qui sia forse un po' più difficile per il Napoli, perché è vero che la Lazio manca del suo giocatore più importante, stiamo vedendo quanto pesava e quanto incideva Klose nella Lazio, però è anche vero insomma, che è una trasferta difficile quella del certo. Roma. Anche la Juve non ce l'avrà facile, considerando che la Fiorentina ha giocato bene anche nelle partite che ha perso, perché sono arrivate alcune sconfitte pur giocando bene, però credo che questo turno qui sia un pochino più a favore della Juve. Detto questo, complessivamente sull'economia del campionato sono molto curioso di vedere a quanto peserà l'Europa. Sì, certo. L'Europa intendo ovviamente la Champions, perché anche il Napoli è impegnato, ma intendo la Champions. E B, quanto peserà il mercato di riparazione intendo, perché ho l'impressione che il Napoli abbia fatto un mercato migliore. Sì, più tarato, più calibrato sul campionato e sulle esigenze davvero che aveva. E poi mi sembra che questo Napoli stia dando un segnale di maturità fortissimo, al di là dei 15 punti in più sull'anno scorso, ma anche proprio nella convinzione e nella forza interiore che ha questa squadra, che mi impressiona molto. Sì, è quello che speriamo tutti, Matteo, tu lo sai, che comunque questo duello duri il più lungo possibile e magari ci porti all'ultima giornata dove ancora decidere tutto, sarebbe meraviglioso. Grazie sì. Matteo, grazie direttore. Grazie a voi, buona giornata. Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, adesso aspetto voi. Cari amici convocati, 800-24-0024 è il numero verde, mentre so che uno dei temi di sempre è il giovedì è quello degli arbitri. Allora ve li dico, Daniele Orsato arbitrerà Lazio-Napoli. A chi tocca la patata bollente bianconera, Juventus-Fiorentina, a Mazzoleni. Domenica per Parma-Genoa 12.30 Peruzzo, mentre Inter-Chievo sarà arbitrato da Marco Guida. Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io stavo seguendo la sua trasmissione, che tutti i giorni la seguo, sono sempre in autostrada, una trasmissione interessante, ma non si può fare, cioè io non capisco i giornalisti, le ballottellate, i ballottelli, le multe, io ne prendo due al giorno di multe ma non sono mai finito sui giornali, non ho mai messo, ma parliamo ai giornalisti per stare dietro a far diventare gli eroi, cioè gente normale, gente no, ma qui no, allora Giovanni, è quello che ho detto anch'io, non si tratta di eroi perché uno che prende la multa ha commesso un'infrazione, non appunto, si deve fare, lo sappiamo tutti, però insomma, se quello che dicevo io è che se pigliare una multa di divieto di sosta a Linate, dove si aspettava gli amici, poi i vigili gli hanno detto no, spostati, lui è tornato indietro, gli hanno dato la multa eccetera, si è arrabbiato. Allora, se queste sono le balotellate, dicevo io, se sono queste le balotellate, anche lei è Balotelli, no? Sì, anch'io, no, anzi, io sono meglio, perché io ne prendo due al giorno per i divieti di sosta, ne prendo due al giorno e sono meglio i Balotelli, ma i giornalisti non mi hanno mai portato sui giornali e niente, non so, cioè, ma che si occupino un po' più di calcio, un po' più di cose serie, cioè, io, guardi, mi creda, 56 anni, se potrei andare via dall'Italia domani andrei via. Sì. Perché non se ne può più, cioè stiamo qui a rincorrere le stronzate che fa un ragazzo di 20 anni che ne abbiamo fatte tutte, bene o male. Beh, lui in altri sì, casi ne ha fatte di più grosse che noi neanche a 20 anni abbiamo fatto. Per l'amor di Dio, appunto. Però in questo caso caso scappa solo da ridere. Ecco, cioè, se teniamo chiuso la bocca ai giornali, anche questa gente qua vedrà che non fa più l'eroe, cioè qui sembra che ce ne la smetta di dire eroe, perché non si tratta di eroismo, si tratta di protagonismo, proprio, no, per non dire sbrufonaggine, ecco. Sbrufonaggine, ecco. Magari sbrufonaggine anche da parte di quelli che gli hanno fatto la multa, che non lo so. Poi uno vede Balotelli e dice aspetta che finisco sui giornali, magari può essere anche così, non lo so. Certo è che una cosa di questo tipo, se queste sono le balotellate, allora ripeto, siamo un po' tutti Balotelli. Grazie Giovanni da provincia di Milano, e attento con le multe perché costano. Balotelli se le può permettere, io ad esempio no, lei non lo so, mi auguro di sì. Mario, provincia di Brescia. Sì, buongiorno signor Gente, grazie dell'opportunità. Mario, provincia di Brescia. C'era un lancio favorito da Marcioni. Poteva essere anche Balotelli. Non sono d'accordo con quello che ha detto Cagni lunedì. Sì, cioè? Quando ha detto che le aziende cercano i manager e non gli universitari. In questo momento difficile da stare attraversando l'Italia, è giusto che l'Inter punti sui giovani. Sì. E non è colpa certo di Stamaccioni se la sconfitta tragicomica di Siena e la classifica, basso fondo di classifica in cui si trova l'Inter, non è colpa sicuramente di Stamaccioni. Se i giocatori non rendono e non corrono. Mario, un attimo. Però se non rendono e non corrono, qualche responsabilità, come dice lei, qualche responsabilità l'allenatore ce l'ha, se no chi ce l'ha? No, i giocatori. L'allenatore fa il suo lavoro, se poi loro fa il suo lavoro, ma quello è quello. Ma il suo lavoro è anche quello di metterli in condizione di rendere al meglio. Il discorso vero che si può fare è che non è colpa di Stramaccioni se i due giocatori fondamentali dell'Inter, lo ripeto, sono Samuel e Milito, non ce li ha avuti in questo periodo. Però è sua responsabilità adesso anche inventarsi qualcosa di nuovo, perché non basta questo per la fila di partite che l'Inter ha inanellato, perdendo, facendosi rosicchiare un sacco di punti e mettendo a rischio un terzo posto che per l'Inter è fondamentale, così come per il Milan, dando per ipotecati i primi due, no? Mi pare questo, sì. Il discorso. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, se prego, mi consente, prego. La poca coerenza di alcuni giornalisti che dopo la partita Juventus-Inter, giocata il 3 novembre, avevano definito un grande allenatore, un grande tecnico. Sì, giornalisti, anche tifosi, no? C'è chi adesso lo definisce, ripeto, pseudo allenatore, quando ieri era nuovo Mourinho, ma sono quegli eccessi che fanno parte di questo gioco, di questo teatrino, se preferite. Prima di Tony da Milano e Arcangelo da Napoli, io volevo farvi sentire un'altra cosa che a me ha fatto morire da ridere, e cioè, allora, Verratti ieri gioca, segna. È forse l'unica nota lieta della partita inutile di ieri sera dell'Italia. E poi gli domandano, ma quel 2 sulla maglia si riferisce a chi? Ma il numero 2 è stato uno dei scelto, è il numero che è avanzato, perché un regista col numero 2 non si è mai visto. Vedevo Ardiles col numero 1 con l'Argentina, ma col numero 2, Marco? No, mi sono ispirato a Callon. Ah, è vero. Ha detto Gigi con Buffon, mi ha detto scegli un numero, ho scelto il 2 perché ho pensato a Callon, non lo so. Hai pensato a addirittura. Callon? Ti piaceva Callon come giocatore? Te lo ricordi? No, sì. mi è rimasto in mente perché è un attaccante che giocava con il 2, quindi sì, è vero. Ogni volta scegliamo i numeri e questa volta, siccome non sono uno che pensa tanto al numero, ho cambiato quasi sempre nella mia carriera. Pensate un po', pensava a Callon. Io avrei pensato a Calloni invece, attaccante del Milan anni 70, famosissimo per la caterva di gol che ha sbagliato più che quelli che ha realizzato. Se si voleva fare gli originali poteva starci anche così. 800 24 00 24, numero verde, siete sempre tutti convocati come Tony da Milano. Pronto? Pronto? Mi sente? Sì, la sento. Dica. Allora, le, io volevo parlare per quanto riguarda il discorso di Balotelli. Ecco, il suo discorso, al solito del suo carattaccio che ha, che continua sempre tutte le volte a fare le cavolate. Anche ieri mi ha fatto un'altra della sua. In una rimessa ha dato un calcio e tutto il pubblico l'ha fischiato. Ha tirato la palla. Ecco, voglio semplicemente dire che non ci sarà poi da stupirsi se inizierà a andare fuori. Da quando darà giù a Torino o con l'Inter, poi lo fischieranno tutti comunque. Capisce cosa voglio dire? perché sei un po' arrogante come persona, come giocatore sarà anche bravo, ma sì, ha un'arroganza quell'essere lì che non quell'essere lì, guardi, ha l'arroganza di diversi campioni e la presunzione anche di diversi campioni, perché Ibrahimovic ad esempio non è molto diverso, se non per il fatto che in questo momento sia, a dispetto di quel che si dice, molto più forte di Balotelli, e su questo ammetto poche discussioni, insomma. Però si tende ad eccedere ogni qualvolta comunque Balotelli compie un gesto, non dico normale, ma poco sopra la soglia della normalità e comunque al di sotto di quella della tollerabilità, direi. Arcangelo, Napoli, buongiorno. Buongiorno. Senta, le volevo chiamare riguardo al fatto che lei riparlava della meritocrazia, no? Che non c'è meritocrazia, diciamo, in generale e anche nel calcio. Però volevo dirle una cosa, c'è una squadra seconda in classifica in questo momento che è Napoli. Non meriterebbe un pochino più di attenzione anche da parte dei giornalisti? Perché vedo che lei la tira in ballo in Napoli solamente quando si tratta di folklore, tipo di prendere in giro le dichiarazioni di De Laurentiis, di parlare del mercato di Cavani. Come se poi Cavani, praticamente il Napoli fosse una lumezzane o che ne so, l'albinoleste che deve togliere anche Cavani. Perché? Un po' di rispetto, cioè, sembra una squadra comunque in seconda in classifica. Ma certo. Anche perché io la stimo la vostra trasmissione, perché veramente no, ma con tutto il merito del mondo. Guarda, ne abbiamo parlato anche prima, no? Dicendo che il Napoli si è rinforzato in maniera molto oculata, molto razionale nel mercato, e a questo punto bisogna stare attenti sul serio al Napoli. C'è grande entusiasmo, guardi, le dico di più, io spero che il Napoli vinca lo scudetto, ma lo dico con il cuore, perché vedrei qualcosa di nuovo e di diverso. Spero che comunque questo duello vada avanti fino all'ultimo secondo del campionato, perché è un bene per tutti, ci divertiamo tutti, almeno si divertiranno, e io mi divertirò tra quelli non particolarmente tifosi, quindi non capisco questa diminuzio, questo complesso di inferiorità che spesso i napoletani si tengono addosso, dico la verità. 800240024, vi aspetto qui dopo la borsa. Tutti convocati. Sono contento perché anche oggi è andata bene e soprattutto abbiamo continuato a lavorare sulla moto e sono riuscito a essere più veloce sia nel giro secco di mezzo secondo, ma soprattutto nel ritmo sono più veloce di mezzo secondo, riesco a girare 0-1 basso, che comincia a essere un tempo abbastanza buono. Ancora ci manca un pochino e ho un po' di rammarico perché volevo girare anch'io in 0-0 e avevo il potenziale, ma ho fatto un piccolo errore, ho fatto 0-1-0 e poi ha cominciato a piovere, quindi domani, se le condizioni saranno buone, sarà quello il nostro obiettivo. Abbiamo tante cose da provare, abbiamo delle cose differenti nel telaio della M1 e delle cose che vorremmo usare per il campionato, e abbiamo una forcella diversa e poi dobbiamo provare delle gomme che speriamo che vadano un po' meglio, quindi per domani sarà difficile, sarà una giornata lunga. Diciamoci la verità, siamo tutti lì a sbirciare dal buco della serratura di queste prove malesi che oggi si sono concluse. Valentino Rossi di nuovo sorridente, di nuovo felice, di nuovo pilota, mi viene voglia di dire. Le prove di oggi, cui Rossi faceva riferimento ieri, come avete sentito, hanno confermato che Valentino quantomeno ha una gran voglia di tornare. Pedrosa sempre il più veloce, dietro di lui Lorenzo, ma terzo tempo per Valentino Rossi. Dice: so di poter lottare con i primi, questa moto mi rende più giovane. È un piacere fare due chiacchiere con Roberto Ungaro, direttore di Riders, ex pilota, telecronista e mio amico. Ciao Roberto. Ciao Carlo, come sempre, grazie molte. Vale is back. Vale is back. Però sì, prima di Vale che is back sì, anche a proposito dei telecronisti, Max Piaggi. Esattamente, colpo di teatro da parte di Mediaset che prende il 6 volte campione del mondo. Lui non ce la faceva a star fuori dal giro come tanti piloti, perché alla fine è così, la cosa peggiore di quando appendi il casco al chiodo è rifarti una vita, e alla fine rimane dentro il giro. Certo, avere un 6 volte campione del mondo che conosce, perché ha smesso solo l'anno scorso, è un bel valore aggiunto, anche se fare il telecronista è un altro mestiere. E ora sarà molto interessante vedere Max al microfono. Sì, e soprattutto sentire quello che dice e capire quali sassi ha voglia di togliersi dalle scarpe, perché non credo che non credo che arrivi lì con tanto buonismo, insomma, poi lo vediamo. No, infatti, sai, lui è così, vuole togliersi tanti sassolini dalle scarpe sicuramente, e ricordiamo i problemi che ebbe in passato per esempio con Pier Francesco Chili, sì, a ruoli invertiti, e infatti sarà interessante vedere questa cosa, perché io spero che lui si innamori della professione del telecronista, cioè di raccontare delle cose che magari lui vede e noi non le vediamo, e non invece intraprenderla come una cosa personale. Certo, questo sarà fondamentale per farci apprezzare Max Biaggi in veste di telecronista, altrimenti meno. Senti Roberto, stiamo, come detto, stiamo covando sotto la pelle questa speranza, no? Di Valentino Rossi che torna ad essere un pilota, che riabbraccia la sua moto, che torna al futuro. È chiaro, primi giri di pista, quello che vuoi, però vederlo con terzo, quarto tempo, vederlo in queste condizioni, vederlo con quel sorriso e sentirlo dire, e sentirgli dire quelle cose, mi sento ringiovanito, mi sento di nuovo pilota, eccetera, eccetera, eccetera, insomma, ci mette addosso un po' di buon umore, almeno a me. Sì, ne avevamo bisogno, perché è stato in un congelatore per 2 anni, e quando un pilota non sente quel feeling, quel cordone ombelicale con la moto, quando non è l'estensione naturale del suo corpo, non ce n'è, cioè già nella testa lasci lì 7-8 decimi. Valentino non sentiva la moto, non c'era verso, gli abbiamo detto dietro che ha avuto un po' il braccino perché poi ha rinunciato, ma una persona come lui non può disimparare ad andare in moto. Certo che i dubbi gli erano venuti, infatti lui era, si è visto un Valentino diverso dal solito, perché aveva addosso un po' di tensione, un po' di pressione, è partito subito a manetta perché aveva tutto da mettere in discussione e quindi ha tirato subito, mentre invece gli altri hanno avuto un approccio molto più graduale, ha dato il 110% forse, ma ha capito la cosa più importante, che la Yamaha è la moto che lui si ricordava, anzi è migliorata in questo frattempo, però ecco, è tornato a fare la cosa col sorriso come sa fare lui. Ha dei clienti scomodi, perché Marquez, ragazzi, strepitoso, ha imparato subito e può solo migliorare, perché ancora lo stile della Moto 2 dove si fa correre la moto in curva si piega tanto, invece con queste moto da 240 cavalli elettronica bisogna spigolare. Ma attenzione, perché tutti dicevamo sì, andrà sicuramente anche a podio il primo anno, secondo me è in grado anche di vincere un campionato Marquez, perché con quello che sta facendo vedere, se non tira il botto, sarà un pilota da vedere costantemente zona podio, e quindi chissà la sorpresa a fine anno. Lorenzo ovviamente deve tenere il numero uno, cresciuto, la moto è migliorata parecchio, ha accorciato le distanze che aveva con Honda. Sì. Pedrosa finalmente sarà il suo anno, deve dimostrarlo, perché altrimenti basta, gli manca solo la MotoGP dopo aver vinto i mondiali in 105 2,5, e manca Stoner, quello si sente, infatti. Valentino, se fosse stato Stoner, magari non era a podio oppure era un posto più indietro, bisogna metterlo in considerazione questo, ma l'importante è che il distacco sia solo di mezzo secondo, che adesso è tanto, ma visto da dove arrivava, i 2 secondi, certo, li ha lasciati ai piloti della Rossa, che guarda caso sono proprio 2 secondi di distacco. Sì, come ha detto tante volte, l'incubo peggiore, prenderle tutte le volte da Lorenzo, non credo capiterà. No, ma poi guarda che la cosa alimenterà all'interno, anche perché il tuo primo nemico è il tuo compagno di squadra all'interno di un team, quindi pensa cosa può venire fuori, cosa può scatenarsi. È vero che Lorenzo è il futuro di Yamaha e quindi magari la casa investe più su di lui per quanto riguarda il progetto moto, però lui ha già dichiarato che non starà tanti anni in quel circus, perché lo sta logorando, lui non ha vissuto fino adesso e ha voglia di vivere, quindi vuol dire 2-3 stagioni, e questo fa capire che l'investimento di Yamaha magari non è così a lungo termine, mentre invece un Marquez, che è nato in casa da questa scuola spagnola, è giovanissimo e su di lui si può puntare ancora tanto, quindi immagina Honda cosa può investire su un pilotino del genere. Sì, certo. E io conosco bene il suo telemetrista e mi dice: ragazzi, questo è un nuovo Stoner, forse anche qualcosa di più. Grande mondiale, ci aspetto un grande mondiale, Roby. Ti aspetto un grande mondiale, finalmente con spunti di interesse che ci riportano. Che ci riportano anche dalle nostre parti con Valentino Rossi. Grazie, sì, Roby. Perché io ho voglia di leggere la Gazzetta dalla prima pagina. Bravo. E quello ce l'ha fatto fare Valentino. Mi manca un po' troppo. Io al bar la apro sempre dal fondo e questa cosa mi dispiace un po'. Grazie, Carlo. Tu sei amico mio. Grazie, Roberto Ungaro, direttore di Riders. Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? No, all'inizio non ci credevo perché sembrava quasi uno scherzo all'inizio, però poi quando ho visto che era veramente grave poi mi sono preoccupato tanto. Lei c'è il triangolo? Sinceramente non ci faccio neanche più caso a quello che dicono di questo. Favorisca la patente per favore. Sono un po' stufato di sentirlo dire. Come mai non hai il bollino? Il bollino dell'ultima pagina, non lo sa? Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. Credo siate rimasti in due a credere ancora in quel demente. Lei è Prandelli, mi scrive un ascoltatore. Beh, mi pare di essere in discreta compagnia, lo accetto. Michele da Grosseto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo dire che sulla questione di Balotelli, tanto ormai è quella di oggi, volevo dire, pur non essendo un amante della categoria del vigile urbano, ma è una cosa prettamente mia, non mi sento che la cosa più giusta da dire sia che c'è un po' di Balotelli in ognuno di noi, nel senso che le multe accidentalmente può essere che le prendiamo anche tutti e le prendo anch'io, però essendo Balotelli una persona che per carità gli auguro tutto il bene del mondo, ma non ha molto da fare, deve dar quattro calci a un pallone, se va a prendere degli amici a Linate, va al parcheggio, paga il ticket, va dagli amici, riprende la macchina e se ne va via. Non è che una bambina che strilla in macchina che deve correre perché altrimenti la bambina fa un putiferio. Sì. Tra l'altro, che, ecco, a parte sulle questioni della bambina, lui l'avrebbe, ma non so neanche se gli interessa più di tanto. No, beh, questi sono fatti suoi. Io, sì, però non c'è un po' di Balotelli in molti di noi, spero. Poi, nel senso, lui faccia quel che vuole. Però, essendo un personaggio pubblico, essendo un personaggio pubblico ed è monitorato costantemente poi da mille telecamere, per carità, tutti esatto, a stargli addosso, esatto, e quello esatto. È il vostro mestiere, voi lo fate, no, come vostro, il, io, giornalista. Sì, ma francamente il fatto che mi diverte e basta, cioè mi diverte e basta, il vedere come una notizia di questo tipo, che è una banalità, questa me la passerà, no, Michele da Grosseto, è una banalità. Prendere una multa per divieto di sosta a Linate a me è successo ed è successo a molti altri che conosco, e magari arrabbiarsi un pochino con il vigile entro toni magari civili per dire un attimo e vado via. La mia sensazione è che uno si trova davanti a Balotelli e dice aspetta che magari un po' di pubblicità mi torna indietro, non lo so, può essere un dubbio che mi viene. Grazie Michele. Ci fermiamo per appunto il traffico che vediamo come va, magari lo ascolta Balotelli e sta attento. Le pallottellate, Balotelli, le multe, io ne prendo due al giorno di multe ma non sono mai finito sui giornali. Tutti convocati. Io mi sto divertendo, non so voi. 800 24 00 24 numero verde. Noto che la nazionale ha depresso non solo me ma anche molti altri, che infatti non ho ricevuto telefonate su, nonostante le tantissime come ogni giorno, non ho ricevuto telefonate di qualcuno che sia rimasto abbagliato dalla nazionale di ieri sera. Piuttosto abbiamo preso un abbaglio noi che l'abbiamo guardata, stregati da questa coppia che è stata molto strombazzata, troppo strombazzata a mio parere. Marco, provincia di Forlì, Cesena. Sì, salve. Salve. Ho sentito Trapattoni e quando lo senti è un piacere, perché prima senti lui, poi ti viene in mente Luis Enrique che dopo un anno dice non ce la faccio più. Vuole sentirlo ancora? Luis Enrique? No, che Luis Enrique, Trapattoni, che parla del marcio del calcio internazionale. Ma sentiamolo, Marco. Ovvia. Impossible because I know the players. Ma we were the champion again, missing 90 minutes. In 5 minutes, unbelief. The stopper go again, boom, contro go goal. Boom, goal. 5 minutes, 5 minutes, 3 goal. 5 minutes, 3 goal. I said, oh, he's idiot, he's drug, or drogati, or I thought, they sell the game. But I have not the proof. No material, problem. But that's, for me, is unbelief, this situation. Mica male, Marco. Boom, tre gol, 10 minuti. Eh? poi è una passione che dica. Non so come dire, sembra che faccia un altro sport rispetto al allenatore. Ma no, non fa un altro sport, semplicemente è una persona di grande intelligenza, è una persona di grande intelligenza, di grande esperienza, e che soprattutto la cosa più bella è che ha un entusiasmo meraviglioso. Questo è Giovanni Trapattoni. Era la prima che io nascessi. Sì, ma poi è stato il primo a una certa età, quando non aveva il coraggio di farlo nessuno, e non ha avuto il coraggio di farlo nemmeno Marcello Lippi. Ha preso Fagotto, è andato a allenare una grande squadra, ma ha imparato il tedesco, ora impara l'inglese con tutto il suo entusiasmo. È questo che ci rende immancabile ed eterno Giovanni Trapattoni. Antonino Bari, buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Certo, è qua apposta. Volevo sapere, io sono palermitano, abito a Bari da 60 anni, quando finirà il delirio del Palermo, e se è sperabile che possa finire anche la presidenza dell'attuale signore del settentrione che lo governa. Signore del settentrione alias Zamparini, naturalmente. Esatto. Facciamo pure il nome, È arrivato un altro signore del settentrione ad allenare. A proposito di lingue, ha sentito la dichiarazione di Malesani? No, non la sento bene. No, dicevo, a proposito di signore del settentrione, ne è arrivato un altro di signore veneto, peraltro, ad allenare il Palermo nel tentativo di salvarlo. Stavamo parlando di lingue, no? Con sentendo sì, Trapattoni. Ha sentito le dichiarazioni di Malesani? No. Vuole no. sentirle? Lui che si trova alle prese con una squadra multietnica, con tantissimi argentini, e gli chiedono: ma sai l'argentino? E Malesani? L'Argentina, l'argentino ne conosco, io ho allenato anche grandi giocatori argentini, mi sono sempre trovato bene, perché ho scoperto che parlando il dialetto veronese loro capiscono, quindi non ho bisogno di spagnolo. Capito? Sì. Non ha bisogno di spagnolo, parla il dialetto veronese, tanto più o meno siamo lì. Su quando finirà la presidenza di Zamparini non lo so, perché Zamparini in tutta la sua bizzarria comunque ha tenuto il Palermo è un commerciante, ma ha tenuto il Palermo comunque in Serie A per molte stagioni. Degli ottimissimi giocatori che sono in tutta Europa potevano rimanere a Palermo e fare una squadra come tale da competere con l'Inter, col Milan, con Juventus, eccetera. Sì, però siamo gli ultimi in classifica. Ho capito, però bisogna avere anche il senso della misura e delle dimensioni, perché secondo me per la modalità di gestione per una squadra come il Palermo da mutuare non è quella del Milan e dell'Inter, ma è quella dell'Udinese, quindi la linea guida da seguire secondo me per una squadra come il Palermo, ripeto, sarebbe quella. Se poi arriva lo sceicco con un sacco di denari, allora facciamo un altro discorso, però la politica di Zamparini mi sembra sia stata sempre piuttosto chiara, no? Arrivano molti giocatori giovani, quindi l'anno che ti va bene riesci a trovarne di bravi, era successo con Cavani, ti va meno bene, rischi la Serie B. In questa stagione la squadra mi sembra particolarmente scarsa, molto più che nel passato, e adesso vediamo Malesani se riesce a salvare il Palermo e soprattutto ad arrivare a fine stagione, aggiungendosi all'elenco che abbiamo fatto ieri, parlando con uno dei due sopravvissuti a Zamparini, cioè uno dei due allenatori che sono arrivati alla fine del mandato, cioè alla scadenza naturale del contratto, anche se nel giro di pochi mesi, cioè Ballardini e appunto Bortolo Muti, che è stato nostro ospite ieri. Andrea da Prato. Sì, buonasera gente, è sempre un piacere di sentirla. Reciproco. Io volevo fare un passo indietro per ritornare al discorso di Valentino della MotoGP, ma nessuno ammetta che si è ritirato un certo Stoner. L'abbiamo rammentato. Si arriva per forza. No, l'abbiamo rammentato, mi pare, Andrea. Se no, diceva prima Roberto Ungaro, probabilmente quantomeno la posizione di Valentino Rossi sarebbe stata diversa. Si è ritirato Stoner, però sentiva prima, io credo, è arrivato questo Marquez a prendere il suo posto all'Honda e pare sia il nuovo fenomeno. Ma la ringrazio, volevo sapere solo questa considerazione. No, considerazione corretta che ha fatto, con altre parole anche un ascoltatore via SMS prima. Sì, Valentino arriva terzo perché Stoner adesso è coi canguri. Certamente Stoner è un grande pilota, un grande personaggio, un personaggio o contropersonaggio a modo suo, che non ha mai amato più tanto questo ambiente, ha deciso di farsi i fatti suoi in Australia dopo aver vinto tutto quello che poteva. Però sono molto curioso di vedere questo Marquez, che appunto pare il nuovo fenomeno del motociclismo mondiale, ma ancora più curioso sono di vedere gli sviluppi di Valentino Rossi in questo suo ritorno al futuro. Oh, prima di chiudere vi ricordo che stasera cominciano le Final Eight di Coppa Italia di basket a Milano. Ci sono subito due partite interessanti, naturalmente Roma-Cantù alle 17:45, a seguire il derby lombardo Milano-Varese. E già che ci sono, vi dico che sempre per il basket, di cui parleremo ampiamente domani, sul fronte NBA torna Bargnani a Toronto, e Toronto che fa? Perde. Miami Show invece. Do i risultati al volo: Toronto ha perso con Boston 95-99, Philadelphia Indiana 69-88, Washington New York 106-96, Orlando Clippers 76-86, Cleveland Charlotte 122-85, Atlanta Memphis 103-92, vince Miami su Houston 114-108, Brooklyn fa il colpo a Detroit 93-90, quindi New Orleans batte Phoenix, Oklahoma City batte Golden State, Dallas batte Portland, Minnesota batte, anzi San Antonio vince sul campo di Minnesota 104-94, Utah Milwaukee 100-96 per quanto riguarda il basket. E domani torniamo su questo argomento, naturalmente. Grazie a Mario Balotelli, che ha preso la multa, a Franco Piantanida per autore di questo programma, a Fabio Cantadoro in regia, a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci avete telefonato. Ciao a tutti, a domani.